Milo De Angelis. Leggo la prima sezione del mio ultimo libro, Incontri e agguati. Questa morte è un'officina. Ci lavoro da anni e anni. Conosco i pezzi buoni e quelli deboli, i giorni propizi, la virtù di applicarsi minuto per minuto e quella di sostare. Sostare e attendere una soluzione nuova per il guasto. Vieni, amico mio, ti faccio vedere, ti racconto. Tutto cominciò in una cameretta, con i regali e le candeline che in un soffio spensero mio padre, fermo nella sua giacca per sempre. E un cerchio di puro niente mi assalì. In un solo attimo franò sul tavolo e mi mostrò 100 di questi giorni. Nel 1967, dopo una lunga guerra di trincea, dopo una guerra di metri guadagnati e persi, iniziai una trattativa con la morte. Iniziai dunque a trattare, sì, a trattare, ma lei recalcitrava, negava la firma, si dava per dispersa e riappariva sul più bello, nella vela di una carezza o nella voce che indicava lassù un'orsa favolosa. Era lei, con un sapore di mandorle bruciate, iniettava nell'alba il suo buio primitivo. Con la morte ho tentato seriamente. Per un po' è stata buona. Ha rinunciato al suo impero universale, ha cominciato a muoversi caso per caso, ha lenito alcuni sussulti con il suo unguento, poi ha cominciato a intonare una canzone cantata in re. Con lei ho cercato ancora un patto, ma era astuta e discontinua, appariva nei traffici dell'amore. Diventava giallore e numero fisso. Era il respiro e l'artiglio nel respiro. Un'ora murata galleggiava nel fradiciume della vasca. Poi, di colpo, un lunedì di febbraio, tutto è tornato come prima. È uscita dal suo feudo, ha fatto incursioni all'alba, nella casella della posta, ha ripreso la sua cerimonia incessante, ha diffuso un canto di puro gelo e ha cercato proprio noi. E ha cominciato a parlare, quella figura plenaria, come il capobranco della nostra fine. Soffocava il lievito felice, affondava con il piede la barca infantile di due foglie. Ci lanciava il suo avvertimento. Sarai una sillaba senza luce, non giungerai all'incanto, resterai impigliato nelle stanze della tua logica. Sarai la crepa stessa delle tue frasi, una recidiva, una voce deportata, l'unica voce che non si rigenera morendo. E morirai invaso dalle domande, correndo controvento a braccia tese, ricordando il tepore della sorridente, scaverai nella miniera dell'ultimo vederla, formerai a poco la parola niente. Ero divenuto ormai l'incarnazione di ciò che perdiamo. In me si raccoglieva tutto ciò che a poco viene radiato. Non prendevo più nota del giorno e dell'ora. Mi assentavo dall'antico fenomeno del mondo. Ciò C'era un oracolo sepolto. Non capivo le parole, ma una viola bronzata e velenosa entrava in quel momento freddo, in quel mormorio di indizi e milligrammi. Era la nostra orbita colpita, come una discordia nel cuore della prima volta. Non puoi immaginare, amico mio, quante cose restano nascoste in una fine. Non puoi capire il pietrame triturato che diventa la tua vita. Eppure era bella, lo ricordo. Era quella che il vigore cosmico chiedeva, una giovinezza di frutteti, l'arte suprema che mia madre augurava. E poi non so, credimi, se riuscirò. Ascolta, vienimi vicino. Posso dirti che il sangue zampilla scuro, ma non riesco a cancellarmi. C'è un silenzio fatato che in me respira, un sussurro di quaderni scritti a mano, e la parola precisa, Dio mio, quella parola che alla trincea della fine mostra un frutto. Ho cercato il punto fermo che fissa un confine e non lo supera, ma fu inutile. Altri saliscendi della mente, altre maree travolsero il nostro puntaspilli, ci gettarono nel sangue. Vicino alla morte tutto è presente, non c'è infanzia né paradiso. Tu cadi in un urlo segreto e non parli. Cerchi un arcano e trovi solo materia. Materia che non trema e ti guarda impassibile e avvicina muta i due estremi. Nella punta di questa matita c'è il tuo destino, vedi, qui, nella punta aguzza e fragile che scrive sul foglio l'ombra di ogni frase e scrive le mura cieche, l'attenuante e il soliloquio. Il tuo destino è proprio qui, in questo immobile trasloco, in questo impercettibile sorriso che un uomo offre al mondo prima di finire. Donna bambina, ma di troppe brame, o donna di dolori e di buriane, sempre presa da trippe e budellame, non so uscire dal buio stamane, dal cavo della mia notte catrame, tra geli duri e colpi di caldane, e sollevarmi e via con voglie grame, fingendo quieti cose lievi e piane per i giorni di guerra e bulicame e per predar le prede piene e vane e a vedere come senza esche o trame poco lega l'amoroso legame. O cuore che mi caschi, che rimane un annientato niente e ho anche fame. Maria Grazia Calandrone. Da serie fossile. Fossile. Metti una mano qui come una benda bianca. Chiudimi gli occhi. Colma la soglia di benedizioni dopo che sei passata attraverso l'oro verde dell'iride come un'ape regale e pagliuzza su pagliuzza d'oro e grano attrebbiato hai fatto di me il tuo favo di luce. Una costellazione di api ruota sul tiglio con saggezza inumana, un vorticare di intelligenze non si stacca dall'albero del miele. Sarebbe riduttivo dire amore questa necessità della natura, mentre un vuoto anteriore rimargina tra fiore e fiore senza lasciare traccia. Usa la bocca, Sfilami dal cuore il pungiglione d'oro, la memoria di un lampo che ha bruciato la mia forma umana in una qualche preistoria, dove i pazzi accarezzano le pietre come fossero teste di bambini. Avvicinati, come la prima, tra le cose perdute, e quel volto si leva dalla pietra per sorridere ancora. Sara Ventroni. La danse, variazione da Burt Norton. Adesso che si rompono, le cose esistono. L'ordine sconosciuto danza dentro la frattura, qui convergono la crescita delle piante domestiche, le confessioni all'aria aperta, la vocazione alla clausura, il saluto ai morti, l'evasione, il riso sugli sposi, la mano armata, la fuga da casa, il sonno leggero, il ritorno alla ragione. Quello che siamo stati e quello che non siamo ancora adesso sono insieme, movimento di frantumi, finiti e commensurabili, perché intero è il limite umano, il finito è il nostro per sempre. Mira Yara Toledo e Carlo Bordini. Questa poesia è dedicata a Bruno Pollack, grande amico mio. Avevo voglia di rompermi, me ne andrai al Mood, un bar grottesco dove vanno i poliziotti a fottere. Accettai un cocktail gratis da un uomo, non lo baciai, ma mi commosse la sua bocca brutta, brutta e grottesca. Il Mood chiuse, andai a piedi al Castellino. I camerieri guardavano le mie gambe, mi offrivano birre. Non avevo rotto gli uccelli, stavo disordinata e nera. Andai ai tavoli a bere acqua. Arrivò un uomo bello che camminava lento. Io ero commovente, ero piacere. Aveva vissuto a Londra, tornò a Roma come un idiota. Era un omosessuale vanitoso e abile. Avevamo tutti e due belle gambe. Era buttafuori in un club di stripper, donne fredde, sue amiche. Gli dissi che ero povera, facevo danza, parlavo lingue, oggi volevo fare sesso. Entrò nel bar un cane, povera bestia dolce. Mi guardò un attimo i fianchi e le mani. Non vuoi che parli per metterti nel club? Balli nuda, nessuno ti tocca, fai soldi. Ci bevemmo una vodka. Se ne andò con l'autobus. Io nuda, ballando sotto le luci, vecchi uomini che mi guardano il petto, teste che mi guardano, uccelli camminano nei loro cervelli. Crisi? Mie. Nuda nella notte mentre altri orinano e dormono. Sarebbe bene denudarmi pensando a leoni e piante, a leoni che aprono la bocca e sbadigliano. Tornare poi a casa, cucinare, mangiare. Polvere. Sarò sempre un po' meno di quello che sono, e anzi molto meno polvere. Ho perso molto. Ciò che si perde è irrecuperabile, e se lo si recupera, esso è ormai disperso, non rientra più nell'ordine prestabilito delle cose. Sono contento se di meno rimane che un lieve involucro. Ho perso molto. In questa levità ciò che più importa è l'assenza di acuti, che tutto sia tondo e raccolto. Basta questo. Tutto ciò che è devastato può divenire rotondo, ancora rotondo, come un vaso, è ancora possibile. La polvere può essere recuperata. La polvere era una volta detriti, ora la polvere non è detriti, è lenta, friabile. La polvere è un po' meno, ma può essere tenuta insieme. Le ferite possono diventare polvere, raccolta e conchiusa. Sono contento di non capire le cose, la loro ragione. Vi sono cose che ignoro e sono contento. Appaiono come misteri, tranquille. Ad esempio, la ragazza che incontro sempre, mi ama o no? Non lo so. Sono contento di non saperlo. Sono contento di non sapere se l'amo. O meglio, so che non l'amo, che potrei amarla. Sono contento di non sapere se avrei potuto amarla. Questo mistero mi rassicura più del suo amore. È bello non sapere, ad esempio, quanto vivrò o quanto vivrà la terra. Questa sospensione sostituisce l'eternità.